sapeva. Oh no, oh no, oh no, c'è una tipa che mi balla vicino. La voglio con gli occhi poi la sporgo. Mi avvicino, buonasera signorina incantevole. Non capisco più niente, forse perché ho la testa fra le nuvole. Mentre il tempo vola via, chiama a casa tua, di ai genitori che stanotte tu sei mia. Non ti preoccupare, ti farò ballare. I tuoi problemi non potranno che scappare. Non vedo l'ora di sentire il tuo respiro che mi sfiora. Già guardo l'aurora. Poi nessuno sa dove siamo, tranne che noi. Facciamo sesso, dai, vai, vai. Se ci sta.